avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Oggi vorrei dare agli ascoltatori la possibilità di procrastinare ancora per qualche ora l'entrata tragica nella settimana con il fatale lunedì. Il lunedì è un po' il giorno che stabilisce che si entra nel mondo concreto. Non ci sono storie, lunedì mattina la vita ci si sbatte sulla faccia in tutta la sua realtà, in tutta la sua concretezza. Per quanto il fine settimana ormai sia costellato da impegni altrettanto gravosi, le famiglie, i figli, le mogli, i mariti, le vacanze, il cambio degli armadi o anche la necessità comunque di fare interessanti weekend assieme agli amici in luoghi d'arte o visitare musei o partecipare a serate o come semplicemente stravaccarsi davanti alla televisione o guardare la partita. Il lunedì determina la fine di tutto questo. Quindi se vogliamo noi determinare una sorta di scansione del nostro tempo, diciamo che il lunedì è l'uscita da una sorta di condizione privilegiata che non appartiene alla realtà, è l'entrata alla realtà. Quindi se oggi vi dico che vorrei partecipare ai vostri sogni, vuol dire che ancora vi lascio la possibilità di rimanere per un'ora circa in quella zona in cui tutto è permesso, tutto è lecito, tutto potrebbe accadere, che è il tempo non scandito dalla quotidianità, non scandito dai doveri quotidiani, non scandito dalle regole, non scandito dalle tenute etiche, dalle tenute morali, dai comportamenti, dalle militanze. Oggi mi piacerebbe parlare della vita come un sogno. È una lettura antica come il mondo, in particolare ebbe una sua fortuna nell'estetica, nella drammaturgia barocca, quando Calderon della Barca immagina la vita e sogno. La vita e sogno è la storia di un re astrologo, la cito a braccio adesso perché non ho sotto mano la citazione esatta, ma mi ricordo che la studia questa cosa all'università. Vide negli astri sarebbe nato un figlio crudele, cattivissimo, tiranno. Quindi quando nasce, dice, per evitare questo lo chiudo in una torre. E questo vive in una torre, per lui la realtà era quella torre. Quindi immaginate, l'unica dimensione per lui possibile è quella di questa torre. A un certo punto mi sembra che si penta, qualcosa del genere, vuole dare comunque, c'è sempre un portato etico dietro il religioso, la possibilità di giocarsi il suo destino a questo figlio, lo addormenta, lo narcotizza e lo mette a corte, lui era il re. Questo si sveglia improvvisamente a corte, circondato da ancelle, servi, cortigiani, via dicendo, non si rende conto di quello che accade, tanta è l'euforia e la rabbia che alla fine si rivela un po' stronzo veramente. E il padre dice, beh, vedi, hanno ragione gli astri, mio figlio sarebbe un pericolosissimo tiranno, lo rinarcotizza e lo risbatte dentro la torre. Si risveglia nella torre, per lui quella che era la vita concreta, la vita reale per il mondo, era soltanto un sogno. La vita è un sogno. E qual era la sua realtà? Quella della reclusione nella torre o quella che ha vissuto soltanto per un momento, come sogno, perché è narcotizzato? Quindi si può entrare e uscire da diverse realtà. Oggi, se guardate le cronache del botteghino dei film di successo, vedete che il film interpretato da Leonardo DiCaprio, Inception, è il film più visto. E narra anche una storia scritta da Christopher Nolan, ci ha messo 10 anni per scriverla, che è un racconto fantastico che dà la chiave della nostra contemporaneità. Il mondo moderno, per quanto le vestali siano stracciati gli abiti, abbiano pianto e abbiano inveito contro la reificazione del mondo, contro la perdita dei valori spirituali, contro la concretezza, l'immanentismo che uccide l'uomo nella sua integrità, in realtà ha una grande spinta verso l'onirico. Questo film racconta che Leonardo DiCaprio altro non è che un estrattore di sogni. Di mestiere come altre persone, entra nella testa degli altri, entra nei loro sogni, condivide il suo sogno con il sogno degli altri e va a rubare dei segreti alle persone. Crea delle realtà oniriche in cui la persona entra, divide il sogno, pensa di stare sognando, dice mi fai vedere cosa c'è nella cassaforte. Nella cassaforte ci sono sempre piani segreti, combinazioni, segreti industriali, va e ruba. Finché un giorno gli chiedono a lui di innestare un sogno, quindi l'inception, di entrare nella testa di una persona e metterci un sogno, metterci un'idea. Beh, 800240024, io questa mattina vorrei fare la stessa operazione con voi, vorrei entrare nei vostri sogni che voi mi racconterete e cercherò di fare degli innesti. Volevo sapere perché è una vita che sogno solo in bianco e nero? Dunque, il mio sogno ricorrente è di prendere l'ascensore, arrivare al mio piano, aprire la porta e trovarmi l'entrata senza pavimento. Il mio sogno ricorrente: sono sdraiata a letto, sento che si avvicina una persona, si sdraia, mi abbraccia da dietro, io sono un po' rannicchiata, mi accarezza e mi provoca un orgasmo meraviglioso. Mi trovo sempre al buio e cerco la luce e mi dispero perché mi trovo in un corridoio buio, trovo anche l'interruttore per accendere e manca la lampada. Io sogno molto spesso persone che conosco che stanno male, questo e quello. Sogno che la mia vita precedente è stata solo un incubo, in realtà sono una persona ricca, c'è una cameriera che mi apre le finestre su un bellissimo giardino e poi niente, poi mi sveglio. 800 24 0024, datemi la possibilità questa mattina, la vertigine, il privilegio, il piacere condiviso con voi di essere l'estrattore dei vostri sogni. Immaginate che ancora voi stiate sognando, che la vita che state vivendo in questo momento non è altro un sogno da cui dovete svegliarvi, se volete, o se volete portate l'ultima propaggine dell'ultimo sogno fatto. Io veramente tanto tempo che non ricordo più di aver sognato, non so quale sarà il segno, quale sarà il fatale destino, ma a un certo punto ho deciso di non sognare più e quindi mi avvarrò dei vostri sogni, entrerò nei vostri sogni, mi piacerà ascoltare i vostri sogni, un po' come fa in Inception Leonardo DiCaprio, che però lui lo fa con una volontà malandrina, condivide i sogni con gli altri, anzi è lui molte volte a sognare, e lui a sognare prende la persona e la porta nel suo sogno e costruisce il sogno come se fosse una città, come se fosse una metropoli, come se fosse un paesaggio meraviglioso, e il sogno comincia a sgretolarsi quando sta arrivando implacabile la realtà, quando ci si comincia a svegliare improvvisamente crollano i palazzi e si sgretolano le città, schizzano via tutte le cose che si hanno costruite in quel sogno, perché torna la realtà e aggredisce il sogno. Ma se il sogno fosse proprio quella realtà? Qual è il parassita più resistente? Un batterio? Un virus? Una penia intestinale? Quello che il signor Cobb vuole dire è che un'idea resistente, altamente contagiosa. Una volta che un'idea si è impossessata del cervello, è quasi impossibile sradicarla. Un'idea pienamente formata, pienamente compresa, si avvicchia qui, da qualche parte. Così uno come voi può rubarla? Sì, nel sogno le difese coscienti si abbassano e questo rende i pensieri vulnerabili al furto. Si chiama estrazione. Signor Saito, noi possiamo addestrare il suo subconscio a difendersi perfino dal più abile degli estrattori. E come può farlo? Perché sono io il più abile degli estrattori. È fantastico vedere come in realtà il racconto di un film, che deve essere un film di cassetta, che concretamente richiede impegno, ma richiederà anche indagini di mercato, richiederà studi, perché un film del genere, un film che poi spopola, un film che dal punto di vista produttivo è anche molto costoso, si basa un po' sull'effettistica che inizia con Matrix, questi mondi ricostituiti. Anche in Matrix in realtà gli esseri umani sognano il mondo, la vita è soltanto un sogno indotto da delle macchine che sostituiscono al mondo concreto ormai dell'etereo, chiuso proprio come la prigione del figlio del re della vita e sogno di Calderon della Barca. Beh, anche qui c'è questa sorta di possibilità fantastica che sognando si possa immaginare tutto il mondo, e il mondo come lo vediamo altro non è che frutto della nostra immaginazione. Questa è un'idea che affonda le radici nelle metafisiche più sublimi. Strano che la più grande macchina di creazione dell'immaginario, che è il cinema americano, in questo momento riprenda il filo di questa concezione dell'esistenza. So come frugare la sua mente e trovare i suoi segreti, conosco i trucchi e posso insegnarglieli, in modo che anche quando dorme le sue difese non si abbassino mai. Senta, se vuole il mio aiuto, dovrà essere completamente aperto con me. Devo potermi muovere tra i suoi pensieri meglio di sua moglie, meglio del suo analista, meglio di chiunque altro. Se questo è un sogno e lei ha una cassaforte piena di segreti, devo sapere che cosa c'è dentro. Affinché tutto questo funzioni, deve lasciarmi entrare completamente. Godetevi la serata, signori. Però presenterò vostra proposta. Lo sa. Immaginare la possibilità di entrare nel sogno altrui in realtà è qualcosa di vertiginoso. Ogni tanto capita che qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice dice: ah, stanotte ho sognato che... ti avevo ascoltato la radio, poi ti ho sognato. Beh, un senso di palpitazione profonda, l'ego esplode, pensare di essere entrati nel sogno di un'altra persona, che un'altra persona ti lascia entrare in quello che è il luogo più riservato, più segreto, la parte interiore in cui si scatena l'immaginazione, in cui il desiderio e la volontà sono liberi perché non hanno condizioni, non hanno condizionamenti, non hanno limiti. E qualcosa potrebbe accadere anche questa mattina con Patrizia. Patrizia, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci lascia entrare nel suo sogno? Sì, sì, la sento benissimo. Pronto? Sì, la sento. Pronto? Sì, vabbè, non sente lei, mi spiace, purtroppo. Patrizia, se sente, la chiamo per l'ultima volta, poi la seguo. Mi sente? Buongiorno? Sì, buongiorno. Mi sente, buongiorno. Sì, ma ce l'ha il telefono attaccato all'orecchio, signore? Ho il viva voce. Eh no, tolga il viva voce, ecco perché non ci faccia perdere tempo. Tolga il viva voce. Ecco. Eh sì. Ecco, adesso mi sente? Sì. Allora, racconti. Allora, a parte che io sono come lei, ho avuto un periodo che non riuscivo a sognare e me ne dispiacevo molto. Comunque un sogno che faccio ricorrente è quello di entrare in un cimitero e di guardare le tombe. Mm. E siccome è ricorrente, io non capisco perché faccio questo sogno. Che potrebbe essere, ma cioè non sono dispiaciuta mentre sono in questo cimitero, guardo le tombe e penso alle vite di queste persone. È come se lei andasse in un'agenzia immobiliare può essere e cerca un appartamento, e può essere che lei mi abbia fornito veramente la chiave, perché io non capisco, non sono amareggiata, e quando mi sveglio, che di solito il sogno ti porta nella realtà con le stesse sensazioni che hai provato, io non sono rammaricata, ho fatto una visita, ma non riesco a capire a che scopo la faccio. Beh, signora, non lo so, mi metto un po' di pressione il suo sogno e non c'entro molto volentieri, quindi compio esattamente la stessa operazione che compiono gli amici di DiCaprio in Inception, quando è ora di risvegliarsi dal sogno e di uscire dal sogno, si fanno ascoltare alla persona che sta dormendo in stato di sonno Je ne regrette rien di Edith Piaf, che è la canzone proprio perché abbandona ogni rimpianto, che permette di uscire dalla dimensione del sogno ed entrare nella dimensione della realtà. Professoressa Mimma Bresciani Califano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. L'ho fatta ascoltare per un attimo i primi deliri onirici dei nostri ascoltatori, che sono piuttosto funeri, ma molte persone si svegliano la mattina colte alla depressione, invece il mio senso era quello di sollievo e sollevazione se possibile. Lei ha curato un interessante volume intitolato Sogno e Sogni, edizione Olschi, se ho pronunciato bene, 2005. È docente di letteratura moderna e contemporanea alla California State University di Firenze e ha scritto diversi saggi sul rapporto tra letteratura, scienza e filosofia. Potrebbe definirmi il sogno attraverso la possibilità di raccontarlo dell'umanità? Oggi pensiamo al sogno subito qualcosa a che fare con il nostro subconscio, ma non è sempre stato così per gli uomini. Dunque, io inizierei, posso cominciare? Certo. Allora, con una citazione presa da Malerba, La composizione del sogno, e che scrive: c'è un luogo dove accadono le cose più strane, dove il tempo e lo spazio sono oggetto di una bessa continua, dove convivono il tragico, il grottesco, l'assurdo. Però sembra la vita questa. Prego? Sembra la vita, non sembra il sogno. La vita e il sogno? No. Ma ora ci torniamo. Questo luogo, posso finire la citazione, dove convivono il tragico, il grottesco, l'assurdo, questo luogo è il sogno. Bene, io posso parlarvi, non entro nel merito del conscio e dell'inconscio perché io sono una letterata. Poi è roba moderna e già superata in sé abbastanza. Quale? Parlare di inconscio, parlare di sogno solo in chiave psicanalitica. Ora arriveremo anche agli ultimi esiti delle ricerche scientifiche, però vorrei fare una passeggiata attraverso il tempo per vedere come di volta in volta è stato considerato il sogno. E il sogno certamente è un evento mentale affidato all'inconscio sul quale né la volontà né la razionalità può intervenire. Vediamo come è stato preso in considerazione nell'antichità. Nell'antica Grecia il sogno era indotto da forze esterne, da divinità buone o cattive, e il sogno era anche una profezia, il cui contenuto è manifesto o è latente e comunque richiede un lavoro di interpretazione. Ora, il sogno che organizza un materiale accumulato nella memoria durante la veglia è un altro sogno. Il sogno come memoria autobiografica non suscettibile di conferma o confutazione nei poemi omerici. La configurazione del sogno qui affidata a immagini che non sono elaborate dal singolo individuo, ma provengono dalla divinità. È foriero questo Dio che ce li manda di messaggi per la comunità. Così, vabbè, era un'area intermedia fra il mondo degli uomini, il mondo degli uomini, un'area intermedia di comunicazione fra mondo degli uomini. Ci sono dei mediatori, infatti, ci sono dei mediatori perché non tutti sono in grado di interpretare il sogno inviato dalla divinità. Ci sono i profeti, gli eletti, ma vorrei citare ancora un momento, perché sono sorprendenti queste due citazioni che ora vi do, perché malgrado i modelli imperanti nell'antichità, ci troviamo di fronte a un'affermazione di Eraclito che è veramente sorprendente, e ve la leggo. Scrive Eraclito: «I desti condividono un mondo unico, comune a tutti. Nel sonno, invece, si volge verso un mondo proprio. È un giudizio questo che ci indica come i greci, almeno a partire dal V secolo avanti Cristo, avessero valorizzato il significato che in seguito il sogno assumerà quale esperienza individuale più o meno significativa». Sentiamo, fermiamoci un attimo perché c'è Dino. Dino deve dirci qualcosa, buongiorno. Pronto? Eccomi Dino, sono qua. Sì, ciao. Solo una piccola osservazione. Il sogno della lettrice, mi pare si chiamasse Patrizia, che ha appena raccontato di sognare molto spesso di andare in un cimitero e leggere i nomi sulle lapidi, e questo non la rende triste. Certo. Mi pare evidente. Finché muoiono gli altri, sempre meglio. Finché muoiono gli altri, sempre meglio che muriamo. Bravo, perché finché se temesse di trovarci il suo sarebbe triste. Evidentemente spera di trovarci il nome di qualche altro. Ma lei ha chiamato che fa l'interpretatore dei sogni, non ha un sogno da raccontare. No, l'avevo chiamato perché mi pareva così evidente, come dire, la soddisfazione della signora nel leggere i nomi altrui. Evidentemente aspetta di leggere lì il nome di qualcuno che diciamo, è antipatico. C'è uno status mentale e anche una condizione anagrafica che uno prova piacere nel leggere i necrologi, inizia a leggere i giornali dalla pagina dei necrologi. Questo è un momento abbastanza tristanzuolo dell'esistenza, penso non sia quello della signora e spero di no. Beh, vedo questa mattina siete piuttosto abbottonati tutti, se non vi va di raccontare i sogni, fra 10 minuti cambiamo argomento, non c'è nessun problema, posso parlare anche di qualche altra cosa. Ma si va ancora per una volta pensare e condividere questa idea che la vita sia un sogno, e quindi raccontare il proprio sogno significa raccontare una parte importante della propria vita. Io sono qui all'800240024 dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Perché non ci dai altri 5 minuti? 5 minuti? Ma io e te abbiamo parlato per almeno un'ora. Nei sogni la mente funziona con più rapidità, perciò il tempo sembra scorrere più lento. 5 minuti nel mondo reale sono un'ora nel sogno. Perché non provi che cosa puoi fare in 5 minuti? Qui hai l'impostazione di base, la libreria, il caffè, c'è anche quasi tutto il resto. Chi sono le persone? Proiezioni del mio subconscio. Del tuo? Siamo nel tuo sogno, tu costruisci questo mondo. Io sono il soggetto, è la mia mente che lo popola. Puoi letteralmente parlare al mio subconscio. Questo è Di Caprio che sta iniziando quella che sarà la sua guida, la giovane architetta Arianna. Non a caso Arianna è la persona che mitologicamente, capito, è colei che guida Teseo nel labirinto, quindi deve aiutarli a costruire questo labirinto in cui si deve perdere la vittima, a cui loro devono innestare il sogno. Poi mi viene in mente un'altra cosa, vedendo i modesti racconti di sogni vissuti, banali sogni, che in realtà non costa nulla condividere, che noi abbiamo già un luogo onirico condivisibile, che è il social network. Sto vedendo che su Facebook stanno arrivando decine e decine di sogni privatissimi, che facilmente vengono condivisi. Esiste già un'area di condivisione del proprio sogno, anche di estirpazione del sogno altrui, anche di osservazione e spionaggio del sogno altrui. Quanti amanti abbandonati o illusione o illusi d'amore passano giorni, giorni, ore e ore a guardare il profilo della persona desiderata o della persona che vorrebbero concupire, quanti molestatori creano delle reti attorno alle persone che vogliono colpire, facendo amicizia con i loro amici e poi cercando di carpire i segreti di queste persone. Mi scrive Elena, un sogno complicatissimo in cui le crescono i capelli lunghi, si trova sul Lungotevere con un professore, con i suoi allievi, poi va al mare improvvisamente. Ecco, qua finalmente vedo che è un luogo in cui si raccontano, si descrivono i sogni attraverso una forma letteraria, una forma scritta. C'è una forma di spontanea autoletteratura, che è la propria attività onirica, che trova supporto nella rete condivisa dagli altri. Quindi il sogno non è più individuale, è abitato da tante persone. Mariella, buongiorno. Buongiorno. Il suo sogno? Il mio sogno è stato un sogno ricorrente per moltissimi anni. Premetto, non avevo la patente, non sapevo guidare, però il sogno, pur in circostanze che cambiavano di volta in volta, era sempre lo stesso. C'era qualcuno che mi metteva in mano, mi metteva su una macchina con il motore già acceso e io dovevo partire e andare, non si capisce bene dove, ogni volta da una parte diversa. E quindi mi muovevo con una paura tremenda, perché, come ripeto, non sapevo guidare, schivando le situazioni vecchiette, le situazioni più disperate. Avevo paura, però anche mi divertivo. Poi finiva sempre questo sogno, non arrivavo mai da nessuna parte, perché era talmente tanta la paura di provocare chissà che cosa che mi svegliavo. Poi c'è stato un risveglio, quello definitivo. C'è stata una separazione, la mia vita è completamente cambiata. È in mezzo al traffico anche adesso, come se fosse dentro il sogno? No, c'ho la finestra aperta. Quindi probabilmente lei sogna di stare in mezzo al traffico, perché dovrebbe fare degli infissi che tengano più il rumore, probabilmente. No, assolutamente, è così bello quello che vedo dalla mia finestra che non ci penso per Ma quello che sente, no? Quello che sento, va bene, ci sono abituata. Comunque le stavo dicendo. Ma ecco perché sognano il traffico, perché c'è un rumore della macchina. Ho cambiato completamente. Tra l'altro ho imparato a guidare. Domani ho l'esame di guida alla mia tenera età e non ho più fatto questo sogno. Da quando ho cominciato a vivere con le mie mani, con le mie forze. Forse io ho tentato di darmi negli anni poi una spiegazione di tutto questo. Dormito per tanti anni lasciandomi andare a una vita che probabilmente non era la mia. Anni, buongiorno. Buongiorno. So detto bene, Anni? Sì, molto bene. Molto bene. Allora, qual è il suo sogno? Allora, il mio sogno non è un sogno ricorrente, ma diciamo che è stato un sogno episodico, ma molto singolare, che mi ha molto turbata, e le dirò anche dopo perché ha avuto un riscontro nella realtà. Mi trovavo in un paese molto soleggiato, penso del Mediterraneo, e c'era una chiesetta su una collina nella quale entrai. In quella chiesetta si svolgeva una funzione con rappresentanti di tutti, diciamo, le religioni principali. C'era un imam, c'era un rabbino, c'era un prete. Un sogno politicamente correttissimo. È già accaduto a Assisi qualche anno fa con l'altro papa. Hanno fatto una grande riunione di tutte le religioni del mondo. Ho capito. Vabbè, comunque io mi sono trovata in una cerimonia di questo genere. E a un certo momento il Pope si è alzato da dove era seduto e additando mi ha detto: tu morirai quando tuo figlio avrà la tua età di oggi. Guarda, che allegria, ma sognate qualcosa, ma cosa mangiate la sera? Cioè, è il secondo sogno cimiteriale e mortifero? No, non è cimiteriale, è soltanto molto singolare e vedrà poi perché io sono rimasta abbastanza turbata da questo sogno. Io all'epoca avevo 41 anni, ne sono passati 20, non ho mai dimenticato questo sogno. Il fatto è che dato che ho dato alla luce mio unico figlio d'età di 35 anni, quindi le tocca 35 più 41 fanno 76, il che vuol dire che io con 76 anni, vabbè, dovrei lasciarci le penne. Manca poco. Beh, insomma, poco no, una quindicina d'anni. Beh, volano 15 anni che... E questa ha ragione, quindi me la devo godere. Sì. Ma la cosa più singolare, ed è quello perché volevo raccontarvelo, che dopo pochi mesi sono andata a fare un viaggio in Corsica, e in un paese tra l'altro che si chiama Cargese, dove c'è una bellissima chiesa piena di sole, piena di luce sulla collina, che è di rito greco-ortodosso, e praticamente sono entrata e la chiesa era quella del mio sogno. Cioè, non vorrei dire, ma visto c'erano tutte le religioni radunate, se andava in Egitto era la stessa cosa, se andava in Siria era la stessa cosa, se andava in Terra Santa era la stessa cosa, in qualunque posto del mondo andava, anche se andava, non so, in Alaska era la stessa cosa, perché lì c'era il grande dio degli eschimesi, se erano tutte le religioni del mondo. Professoressa Mimma Bresciani Califano, questo senso profetico del sogno, come vede, riemerge ancora, perlomeno ci illudiamo che i sogni ci raccontino, si rompa il dominio del tempo e dello spazio e quindi sogniamo cose che potrebbero accadere. Per gli antichi era esattamente la stessa cosa. Sì, la spazio-temporalità viene completamente cancellata. Ma sono interessanti questi sogni. Non sono molto sinceri, guardi, per come conosco i miei polli, raccontano cosettine che racconterebbero a chiunque, anche al verduraio la mattina. I veri sogni che vorrei condividere sono quelli che non si raccontano, ma non devono essere sogni legati necessariamente alla sfera intima, sono i sogni veramente angosciosi, questi sono tutti sogni, anche se parlano di cimitero ne parlano con il sorriso sulle labbra. Allora io, se posso andare avanti con la mia scorribanda attraverso il tempo, arriverei anche ai sogni gotici, per esempio. Ecco, perché appunto i sogni profetici del Vecchio Testamento, l'eletto che li spiega, sono un discorso collocato nell'antichità. Nel 600 poi c'è una critica serrata del razionalismo e ha demolito questa verità, cioè dei sogni profetici, e ha cercato di spiegare razionalmente che cosa sono e come si determinano i sogni. E quindi io ho citato Calderon della Barca, comunque di quel periodo. Stavo per citarlo anch'io, l'avevo presente, perché lo Stato entra in lotta con la profezia religiosa e politica della Bibbia, no? Abbiamo Spinoza, eccetera. Abbiamo cioè gli studiosi del razionalismo che cercano di collocare in uno spazio diverso la realtà sociopolitica rispetto alla religione. Poi vedi, ancora esiste Vanna Mark, esistono i profeti televisivi. Purtroppo, quindi... purtroppo. Ma infatti in un altro... Posso continuare? Sì, prego. In un altro volume che ho curato, Memoria, c'è un bellissimo saggio di Paolo Rossi, dove appunto parla di ciò che resta e ciò che sopravvive. Noi crediamo di poter fare piazza pulita di tutto questo, non è possibile. E c'è anche un mio saggio su Cesare Pavese, che analizza proprio la scrittura di Pavese da un punto di vista, tenendo presente il paradigma di una storia circolare e lineare, cioè la storia avanza ma le ricadute o la ripetizione c'è sempre di atteggiamenti, ma su questo ora non è il caso di parlare. Sì, sì. Però vado avanti con Pedro Calderon della Barca, che lei ha citato, La vita e il sogno, e Francisco De Quevedo, anche lui, si interrogano sull'uso del sogno in quanto possibilità di scoprire la verità. Il primo, La vita e sogno, dice che tra vita e sogno c'è una piena identità. Il secondo invece, Francisco De Quevedo, per il sogno dice che il sogno è necessario se si vuole scoprire la verità della vita e di noi stessi, quindi c'è una distinzione, cioè c'è la possibilità di leggere nel sogno molto di noi e scoprirci. E noi dobbiamo fermarci solo un istante, che dobbiamo dare linea alle informazioni del traffico, poi continueremo a sognare, a sentirci raccontare cosa sono i sogni, che forse è la meno onirica delle attività possibili. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. Mi sto rendendo conto, ascoltando un po' i racconti dei miei ascoltatori, ascoltando anche le dotte dissertazioni sulla storia del sognare, sul rapporto tra il sogno e la realtà, che in realtà l'uccisione del sogno è il racconto del sogno stesso. Forse l'operazione questa mattina è un'operazione catastrofica, in quanto chiedere di raccontare sogni significa far uscire radicalmente dalla possibilità di avere quell'attimo fatale di incertezza. Starò sognando o starò vivendo la vita concreta? Questa cosa me la sono sognata, l'ho vissuta veramente. Questo è il vero senso della ineffabile e fantastica meraviglia di essere persone viventi. Perdere il senso della realtà, perdite graduali, perdite controllate, perdite non perniciose, ma la possibilità di entrata e uscita, la possibilità di incertezza, il dubbio, se qualcosa appartenga al mondo concreto, al mondo del sogno, secondo me dà un grande valore alla tristezza, al grigiore dell'esistenza, e allo stesso tempo depotenzia forse un po' il senso di perdizione del sogno. Noi stiamo sognando ogni istante la nostra vita, ogni istante la nostra vita è concretamente appartenente anche al mondo del nostro sogno. Giuseppe, buongiorno, lei pare che abbia degli strumenti più raffinati dei nostri per capire questa difficile equazione. Pronto? Sì, eccomi. Chiedo scusa. Buongiorno, dottor Nicoletti. Mi sono interessato ai discorsi che faceva la dottoressa lì presente in studio da voi, in quanto forse la persona che potrebbe dare una risposta alla mia domanda di fondo. Lei è una storica, io comunque. Io sono uno sceneggiatore di sogni, nel senso che i miei sogni me li gestisco tranquillamente. Io sono perfettamente conscio di sognare, sogno sempre, ma 9 volte su 10 gestisco il sogno. Se non mi piace lo cambio, se mi rendo conto che l'ho già visto ed è brutto, spengo, stacco la spina e passo su un altro canale. Cioè un telecomando, se, praticamente. Un telecomando mentale durante il sonno. Se viceversa è un sogno che ho già fatto, però so che è bello, mi piace, lo vedo volentieri fino in fondo. Se si porta verso qualcosa di tragico. Ma lei si addormenta davanti al televisore acceso o questa cosa che ci sta raccontando? No, è raro, molto raro. No, è una cosa che mi capita non sempre, diciamo, però 8 volte su 10, da sempre praticamente, ormai ho una certa età, ma mi capita sempre così. E quelle rare volte che ho avuto opportunità di parlarne con qualcuno, amici, conoscenti, suscito sorrisetto, come dire, vabbè sì, insomma, forse. Quindi mi sembra che non sia una cosa comunissima, però a me non sembra una cosa così disperante. No, no, ma non mi angoscio per niente, anzi, di uno di più. Nel momento in cui vedo che il sogno sta scivolando verso qualcosa di sgradevole, può cambiarlo. Per tagliarlo fuori, o cambio canale, oppure lo cambio il finale in maniera ancora più truculenta, in maniera tale che la finiamo fuori e non ci pensiamo più. Sì, però, scusi, le manca una grande dimensione, è quella della meraviglia, dello stupore, il sogno che ti stupisce, quello che non controlli. Proprio perché non so se è una cosa normale, fra virgolette, oppure se è se vuole realtà. Sentirsi dire che ha un superpotere, io posso anche dire, ha un superpotere, è un veggente, non lo so, però mi sembra che abbia totalmente ucciso il fantastico tremore di svegliarsi dopo aver sognato, il fatto che lei abbia la certezza e la sicurezza di poterlo determinare con un telecomando. Comunque ognuno è padrone della propria vita e anche dei propri sogni. No. Antonia, buongiorno. Antonia? Sente? Sì, e come no, certo, vi sento sempre. Dunque, io il mio sogno è un sogno abbastanza, l'ho fatto che ero molto giovane, nella pubertà, e però ancora oggi ogni tanto mi torna alla mente. E cioè lo risogna o si ricorda di averlo sognato? No, mi ricordo di averlo sognato, non l'ho più sognato. Quindi allora. Parecchi anni che ha fatto questo sogno? Sì, saranno 30 anni, nella pubertà. E in 30 anni non altro sogno importante si ha sovrapposto a questo sogno? Non sogno quasi mai. E l'unico che ricordo è proprio questo, che adesso descriveremo nei minimi particolari. No, questo me lo ricordo, diciamo, che me lo ricordo bene perché mi è rimasto in mente. E cosa aveva sognato? Ho sognato che ero adulta, e andavo in bagno a fare la pipì e mi era cresciuto il pisello dell'uomo, praticamente io ho dovuto fare la pipì in piedi come gli uomini, perché con mio gran stupore ho detto no, cosa è successo, cioè mi sono stupita tantissimo, però... E ha provato questa impossibile sensazione per una donna della necessità di centrare il punto giusto? Sì, esatto, ma non, cioè è stato proprio uno stupore nel io sono andata in bagno che ero una donna e quando sono andata a fare l'atto ho scoperto di non avere più la vagina, ma avevo il... E quando si è svegliata è andata a controllare che tutto fosse a posto? Sì, credo di sì, questo non lo ricordo con precisione, ma penso di sì. E quindi perché? Sì, sembra A noi tante volte sogniamo che ci casca tutto e ce lo perdiamo per strada. Succede, penso, fa parte, non so, di quello che uno ha mangiato, non lo so. Mi stupisce questo sogno l'abbia segnata così tanto che ancora se lo ricordi rispetto a tutta l'attività onirica che ha avuto in questi anni. Sì, non mi ha segnato, però è un ricordo che è ancora presente, insomma, è molto, molto vivo. Va bene, mi fa piacere. No, rien de rien. Non so se nel caso della signora questo rimpianto sia adeguato. Umberto, buongiorno. Buongiorno. Volevo raccontare quello che mi è successo 3 anni fa d'estate. Ero all'isola del Giglio e mi ero preso una intossicazione alimentare. Mi sono svegliato nel pieno della notte. Che aveva mangiato? Con questa Prego? Che aveva mangiato? Ma probabilmente del pesce che non andava bene. Quindi lei... E mi sono... Sì. Si è svegliato dopo aver mangiato del pesce avariato, si è sentito male. E poi? Mi sono svegliato, stavo già prendendo dei farmaci, forse questo ha aiutato, e avevo questa sensazione di essere metà carne e metà pesce, che non so esattamente che cosa voglia dire, ma era esattamente l'idea che avevo. Una specie di sireno. Sì, e mi sono svegliato con questa idea che... questa cosa non andasse bene, ma non riuscivo più a tornare nel mondo del reale, per cui ho svegliato la mia compagna, abbiamo acceso le luci, mi sono messo davanti allo specchio, ma era come se non riuscissi a vedermi, e quindi sono andato avanti. Veniva il pesce dall'ombelico in giù? Sì, esattamente. Beh, non so, adesso, non voglio entrare nei particolari, perché fa parte della sua sfera personale, di quali sostanze è composto il suo armadietto della farmacia, ma forse avrà confuso scatolina delle pillole, può essere. Credo, perché più che altro erano cose per lo stomaco, per rilassarlo, quindi brumuro, quindi questo forse... Ma se lei prende il brumuro per andare a dormire, è chiaro che le vengono questi sogni, è come il rimpianto di qualcosa che ormai è scivolato via e come i salmoni è risalito la corrente. No, rien de rien. No. Roberto, chiudiamo con lei. Pronto? La galleria degli incubi, non dei sogni. Roberto, avanti. Eccomi. Ci faccia sognare, sì. Mi sentite? Certo. Oh, intanto volevo farti i complimenti per le battute che fai, mi fanno divertire. Sì, vabbè, tagliamo questa parte qua perché sto per chiudere. Ok, perfetto. Guarda, il mio sogno è estremamente semplice. Salgo su un ascensore per un palazzo grande, un grattacielo. Questo ascensore prende velocità, addirittura lo supera. Cioè mi trovo nell'ascensore, nel vuoto, e ovviamente mi sveglio. Come un missile. Come un missile, sì, un missile che super, che proprio sfonda il grattacielo. E quanto lo fa? Con quale frequenza fa questo sogno? Ma è che annuale, potrei dire. Una volta l'anno lei va oltre i limiti. Più o meno, sì. Va bene, andare oltre i limiti verso l'alto sempre meglio che sprofondare. Grazie. No, rien de rien. Uno deve ammettere le proprie defaianze anche quando non vorrebbe. In realtà stamattina proprio non ci abbiamo preso. Non ho sentito un sogno che vale la pena di essere condiviso. Veri incubi che non vorrei mai nella vita condividere con nessuno. Però se questo passa il convento, di questo ci accontentiamo. Anzi, diciamo pure grazie a Valerio Rocchetti e Fabrizio Intonti. A domani. Alors tous deux on est reparti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.